Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In primo piano oggi il punto sullo sviluppo dell'intermodalità ferro-gomma, con l'ipotesi che i treni merci possano circolare di notte sulla linea dell'alta velocità. Il progetto per la realizzazione di una seconda canna per il traforo del Monte Bianco, dove il traffico è in costante aumento. Le proposte di Conftrasporto per limitare ritardi e disagi determinati dall'inasprimento dei controlli in seguito all'emergenza terrorismo. Oggi in Italia solo il 7% delle merci viaggia su rotaia. Tra i paesi europei nessuno fa peggio. L'Unione Europea ha posto obiettivi impegnativi nel nome della sostenibilità dei trasporti. La quota delle merci trasportata via ferrovia dovrà raggiungere il 30% nel 2030 e il 50% nel 2050. Le politiche del nostro governo in termini di trasporti mirano a recuperare il ritardo accumulato, soprattutto negli ultimi 10 anni, nel corso dei quali il numero dei treni merci è sensibilmente diminuito. L'obiettivo annunciato dal ministro Graziano Del Rio è raddoppiare la quota del 7% in poco tempo. L'incentivo a favore dell'intermodalità, il cosiddetto ferro bonus, che dovrebbe essere operativo entro ottobre, va chiaramente in questa direzione, ma per rendere il trasporto di merci via ferrovia efficiente occorre un'infrastruttura adeguata. Tracciati, gallerie, raccordi portuali, terminal intermodali, tutto all'interno di un sistema logistico interconnesso tra le varie modalità. Insomma, c'è ancora molto da fare, occorrono quattrini. A questo proposito, il gruppo FS ha annunciato investimenti per 500 milioni di euro. Alla vigilia di Ferragosto, dal CIPE è arrivato il via libera per il finanziamento del quarto lotto del terzo valico dei Giovi, opera strategica lungo il corridoio Reno-Alpi, che però sarà pronta nella migliore delle ipotesi tra 5 anni. Nel frattempo, tra le proposte avanzate allo scopo di incrementare la quota di merci trasportate via rotaia, c'è anche quella di farle viaggiare sulla linea dell'alta velocità nelle ore notturne, cioè quando il traffico passeggeri è fermo. Non è tanto una questione di velocità, va specificato, quanto di alta capacità in termini di dimensioni infrastrutturali dei tracciati in linea con i più elevati standard europei. Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma si dice che per vedere i primi treni merci sfrecciare sulla linea ad alta velocità bisogna attendere il 2018. Di tutto questo abbiamo parlato con Giampiero Strisciuglio, direttore commerciale ed esercizio di Rete Ferroviaria Italiana. Futuro è treni più lunghi, più capaci, però ci vogliono anche delle reti sulle quali farli correre. Sicuramente sì, Rete Ferroviaria Italiana sa benissimo questo, ci sta lavorando all'interno di un piano commerciale molto articolato, concertato con il Ministero, quindi con la parte politica, ma anche con le strutture tecniche del Ministero. Piano ovviamente finalizzato a realizzare sui corridoi internazionali che attraversano la nostra rete, in via prioritaria, interventi per fare treni di 750 metri e con sagoma APC80, quindi il corridoio a 4 metri, stiamo parlando sostanzialmente degli standard top in Europa. Su questo ci stiamo lavorando in maniera concreta, ci sono diverse risorse che abbiamo nei contratti di programma vigente e in quello in fase di aggiornamento. Sostanzialmente ragioniamo e attuiamo già in maniera concreta questo programma. Anche perché bisogna fare in fretta, il Gottardo diventa operativo a dicembre. Sicuramente sì, nella fattispecie con i colleghi svizzeri abbiamo un piano articolato e strutturato per arrivare insieme al 2020, quando la Svizzera aprirà anche l'ultimo collo di bottiglia, il Ceneri, attraverso un intervento analogo al Gottardo. Dalla nostra parte realizzeremo in maniera sinergica interventi sulla rete per consentire la continuità del corridoio 4 metri. Le merci, si dice, potranno viaggiare sull'alta velocità. Ci sono proposte concrete in questo senso? Tempi? Allora, è uno dei temi. Il gestore dell'infrastruttura risponde alle richieste del mercato, ci stiamo lavorando. È un tema che richiede lo sviluppo di progettualità sia da parte del gestore che da parte delle imprese ferroviarie. Lavoreremo per rispondere alle esigenze del mercato nel tempo congruo. Cosa significa? Prima possibile, in relazione allo sviluppo della parte tecnica, che richiede anche valutazioni importanti per quanto riguarda le imprese ferroviarie. Nel corso del 2015 nel traforo del Monte Bianco sono transitati poco meno di 1.900.000 veicoli. Di questi 575.000 sono stati mezzi pesanti, circa 1.500 al giorno. È agosto il mese in cui si registra il picco di transiti e a proposito, nel fine settimana di Ferragosto i tempi di attesa al pedaggio hanno raggiunto picchi di 2 ore e i disagi si sono ripetuti l'ultimo fine settimana per il primo atto del controesodo dalle località di villeggiatura verso le città. I flussi di traffico lungo gli 11 chilometri del tunnel praticamente si equivalgono tra i due sensi di marcia. Per consentire i lavori di manutenzione, ogni tanto il traforo deve essere temporaneamente chiuso. È quello che accadrà, per esempio, dalle 22 di lunedì prossimo, il 29 agosto, alle 6 del giorno successivo, martedì. Nelle 2 notti successive la circolazione avverrà a senso unico alternato. Del raddoppio del traforo del Monte Bianco si parla da anni tra favorevoli e contrari, soprattutto dal fronte ambientalista. Recentemente a riproporre il progetto è stato il presidente della regione Valle d'Aosta, Augusto Rolandin, lo abbiamo sentito. Nell'ambito anche della politica delle USALP, della macroregione alpina, uno dei punti nodali sono i trasporti. E quindi in questo ambito, nel mentre si sta cercando di tenere nella massima attenzione quello che è il problema di sicurezza, rifacendo e prevedendo degli interventi, come dire, interventi sostanziosi, ma per la messa in sicurezza che di volta in volta viene fatto con sospensione temporanea della circolazione del traffico. Il punto nodale è questo. Sappiamo che anche le normative europee vanno verso, da una parte, una richiesta di avere auto che circolano sempre più N5, N6, cioè di ultima generazione, meno inquinanti, e dall'altra noi abbiamo bisogno di mantenere questa sicurezza come soluzione, la canna, una seconda canna, cioè una di andata e una di ritorno. Il che ha generato molto spesso l'equivoco di voler aumentare quella che è la base di traffico, cosa errata, cosa che non esiste, che invece va nella direzione di garantire proprio nel futuro quella sicurezza che già c'è, ma che è legata a una serie di provvedimenti restrittivi nell'ambito di questi 11 chilometri che noi vogliamo che gli stati competenti prendano in esame con una certa urgenza per poterla programmare e finanziare nel modo giusto. L'emergenza terrorismo ha determinato una stretta ai controlli, in particolare a certe frontiere. Pensiamo a quello che è accaduto a luglio a Dover dopo gli attacchi in Francia. Dal fine settimana di Ferragosto nei porti italiani l'allerta è stata elevata a livello 2 su 3. Più attenzione, più code, tempi di attesa più lunghi, anche se alla fine i disagi per i passeggeri sono stati abbastanza limitati. Per le merci in viaggio sulle rotte internazionali, soprattutto lungo le strade, può significare tempi di viaggio dilatati e incertezza nelle consegne. Come ci siamo già occupati in una puntata precedente, una questione particolare riguarda le merci deperibili. Pensiamo per esempio ai prodotti ortofrutticoli, una voce importante del nostro export alimentare, soprattutto d'estate. Ma più in generale, il rallentamento del flusso può determinare ricadute per l'intero sistema economico. Conftrasporto ha ribadito una proposta per rendere più selettivi i controlli e ridurre contemporaneamente i disagi. Al nostro microfono il presidente Paolo Uggè. Rallentando i collegamenti, noi corriamo il rischio di perdere quella competitività per la quale l'Unione Europea si è impegnata, non sempre riuscendovi ovviamente, con lo scopo di competere con le altre economie mondiali. Allora, questa proposta noi l'avevamo lanciata qualche tempo fa. Io credo che si possa, per le imprese europee che hanno conducenti dei mezzi europei, possa utilizzare un corridoio all'interno dei paesi dell'area Schengen, consentendo loro di poter circolare liberamente secondo le regole di Schengen. A differenza invece di coloro che non appartengono e non hanno queste caratteristiche, e ai quali dovremmo applicare il sistema austriaco, e cioè 7 giorni prima devono comunicare che fanno il trasporto, chi è l'azienda, chi è l'autista che conduce l'automezzo, che merci trasportano, quanto tempo pensano di fermarsi all'interno del paese, parte della comunità europea, per consentire a coloro che sono dedicati ai controlli di poter effettivamente verificare chi arriva. Vuol dire che questo impedirà sicuramente l'arrivo dei terroristi o il trasporto di armi, droga, migranti e quant'altro sui mezzi gommati? No, ma certamente realizzerebbe un sistema nel quale Schengen e la libera circolazione delle merci verrebbe garantita, e vuol dire che sicuramente si creano condizioni migliori per fare dei controlli un po' più incisivi. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti finisce qui, noi ci risentiamo venerdì prossimo alle 13.30 con un nuovo speciale del nostro programma, questa volta dedicato ai furti e alle rapine, ai danni dei mezzi pesanti, ma anche dei veicoli commerciali e di altri fenomeni criminali che vanno in scena lungo le nostre strade. Appuntamento quindi a venerdì alle 13.30 per lo speciale, la puntata, diciamo così, ordinaria di Hashtag Autotrasporti torna lunedì alle 13.45. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.